Buongiorno e bentrovati a tutti, rientriamo in studio oggi con un nostro graditissimo ospite perché parleremo di Camilla. Camilla, non una ragazza ma una comunità, in questo caso una comunità di acquisto, di commercio, ma vogliamo chiederti di più Giovanni perché tu sei insomma dentro la comunità praticamente da quanto ha aperto, come funziona, di cosa si tratta e degli eventi che ci saranno in questi giorni. Ciao Giovanni. Sì, ciao Claudio, ciao a tutte e tutti. Sì, allora, noi siamo una cooperativa di consumo e ci siamo insomma ormai da 5 anni a Bologna nel quartiere San Donato in via Casciarolo e proponiamo alle nostre soci e ai nostri soci l'acquisto di prodotti del territorio, etici, da progetti sociali, con l'obiettivo di poter fornire tutto quello che ci serve nei nostri consumi quotidiani scelto da soci e soci, quindi manteniamo l'impostazione originale, quindi in cui i proprietari della nostra cooperativa sono soci e soci che danno il loro contributo di tempo perché tutto funzioni. Quello che faremo nei prossimi giorni è semplicemente far vedere quello che facciamo e quello che siamo. Questo succederà sabato 16 novembre dalle 10 alle 16:30 circa, in cui ci saranno sempre delle persone soci ad accogliere chi verrà a trovarci e vorrà vedere quindi in prima persona quello che facciamo. Sono occasioni che ci sono per alcune volte all'anno in cui tutte le persone che vogliono possono venire a vedere, anche provare i prodotti, acquistarli e poi magari decidere di diventare soci. E dove sarà? Sarà presso il nostro emporio, che è nel quartiere San Donato, via Casciarolo 8, zona di via della Repubblica, tra via della Repubblica e via del Lavoro, per capirci, dove è sempre la nostra sede. Forse ci sarà un banchetto di accoglienza, ci saranno anche approfitto per dirlo, questo sabato tra i vari progetti e le realtà che conosciamo e sosteniamo, sabato ci saranno le lavoratrici della Perla, insomma le persone che sono ancora impegnate in quella vertenza che speriamo finisca presto ma è ancora in itinere, e proporranno anche i loro prodotti che stanno facendo appunto per far conoscere ancora la loro situazione, anche per sostenere la vertenza che c'è ancora. Infatti assolutamente meritevole questo da parte vostra di ospitarle. Quello che mi sento di dire insomma come cronista, come giornalista, è che Camilla è il classico esempio di persone che si impegnano dal punto di vista del consumo. Che cosa significa? Lo dico da profano, però quando una persona si chiede ma quello che acquisto dove va, e quindi comincia a scegliere i produttori, a scegliere quali sono le attività che magari impattano meno sull'ambiente, e questa cosa è dimostrata in maniera proprio empirica da Camilla, nel senso che sono tante persone che si sono messe insieme autonomamente dal basso e sono riuscite a creare appunto una cooperativa di comunità che gli permette di fare la spesa in maniera pienamente etica e rispondente a criteri che non sono quelli di mercato. Questa è la mia piccola esperienza per conoscendola dall'esterno. Ti chiedo invece, per sapere di più dell'evento di sabato, come possiamo fare, insomma, ci sono canali social oppure su un sito? Sì, sia sui nostri social che sul sito camilla.coop, dove c'è una pagina, stia cercandola, che si chiama Camilla Aperta, quindi camilla.com, Camilla Aperta, dove c'è la descrizione di quello che succederà. Ringraziandoti per l'invito, invito di nuovo tutte e tutti a passare, anche in maniera informale, tranquilla, per fare due chiacchiere e poi approfittare di vedere tutto quello che c'è dentro. Come dicevi tu, è anche proprio un'espressione pratica di una modalità alternativa, quindi di praticare, di decidere autonomamente cosa si vuole sostenere e cosa si vuole consumare. E anche di assaggiare, perché insomma venire e si tasta con mano i formaggi, i vini, l'hai detto certo, tu. sì, l'ho detto, confermo, dai. Potrei fare anche questo. Grazie Giovanni, quindi avranno modo anche di conoscerti, grazie per essere stato con noi. Dai, grazie a te Claudio, buona giornata, arrivederci a tutti.